Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Oggi possiamo guardare con maggiore fiducia al futuro, ma dobbiamo farlo col massimo della prudenza e col massimo della cautela. Oggi ci sono le condizioni per programmare il domani, ma dobbiamo farlo con i piedi ben radicati nell'oggi, perché l'oggi è ancora un oggi fatto di un virus che circola, di difficoltà enormi che ci sono ancora in larghe parti del nostro territorio, e guai a pensare che la battaglia sia definitivamente vinta. Beh, questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, lo dobbiamo naturalmente tenere presente tutti, perché nonostante ci stiamo ormai avvicinando alla fase 2, il 4 di maggio, e varie regioni già stanno pianificando, anche la città di Milano, di cui parleremo, però, come dice giustamente il Ministro della Salute e Speranza che avete sentito, bisogna tenere anche i piedi ben piantati nell'oggi e rendersi conto che la battaglia non è per niente vinta, e quindi si comincerà a riaprire, ma non c'è assolutamente la garanzia del rischio zero, quindi bisogna farlo naturalmente con prudenza. Questo deve essere un mantra, come tanti mantra ci sono stati anche in questo lungo cupo periodo, perché d'altronde ci deve entrare in testa e non dobbiamo rilassarci troppo. C'è il rischio veramente poi di ritornare a questa vita così abbastanza, a un certo punto insopportabile, al di là poi di tutte le vittime, tantissime finora. Dunque, questa puntata ricchissima anche in finale di settimana, vi dicevo, parleremo della ripartenza, della fase 2, delle misure che sta mettendo in campo il governo e anche ancora delle polemiche invece di quelle messe per il momento così sul tavolo per quanto riguarda l'Unione Europea per contrastare la crisi economica che riguarda in particolare il nostro paese ma anche gli altri paesi in Europa. Poi ci occuperemo anche di scuola. Naturalmente oggi è il Radio Day, sapete, è dedicato tutto il palinsesto di Radio 24, ha dedicato degli approfondimenti alla scuola. Poi c'è il meteo che guarderemo dalla finestra, insomma molte altre cose per stare insieme quest'ora. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, lì potete scrivere i vostri commenti, oppure SMS e WhatsApp da inviare al 349-238-6666. Poi c'è il Twitter di Effetto Notte durante la diretta, oppure per alcune anticipazioni durante la giornata, il Twitter è Roby con la Y, lineetta bassa, Giordano. Il coronavirus in Italia, la curva dei contagi prosegue la discesa, ma aumentano ancora quelli scoperti a Milano. A livello nazionale, per la prima volta, i guariti sono più dei nuovi casi, 464 i morti. Cura Italia, la Camera approva il decreto che quindi è legge e il Consiglio dei Ministri approva il documento di economia e finanza, confermate le cifre della vigilia. La fase 2, Veneto avanti sulla riduzione delle restrizioni, via libera di Zaia ai lavori pubblici su strade e infrastrutture, e Milano pianifica la ripartenza. Il sindaco Sala la definisce una rivoluzione, ospite di Effetto Notte sarà l'assessora al commercio Cristina Tajani. L'OMS lancia una coalizione internazionale per il vaccino, Conte assicura l'Italia in prima linea, ma Stati Uniti e Cina non ci sono. Stati Uniti, la cura di Trump, iniezioni di disinfettante contro il virus, e dopo l'infuriare delle critiche dice era una frase sarcastica. Sport, il calcio italiano aspetta certezze per ripartire, intanto in Germania la Bundesliga punta al 16 maggio. Partiamo quindi dalla situazione dettata dall'epidemia di coronavirus in Italia. Continua per il quinto giorno consecutivo il calo dei malati di coronavirus nel nostro paese. Sono 106.527 gli attualmente positivi, 321 in meno di ieri. Sono salite a 25.969 le vittime, quindi ancora tantissime per coronavirus in Italia, con un incremento di 420 in un giorno. I dati sono stati resi noti, come sempre, quotidianamente dalla Protezione Civile. Superano le 60.000 le persone guarite dal coronavirus in Italia. Più della metà delle regioni italiane quindi fanno segnare un calo dei malati per il coronavirus. Dai dati della Protezione Civile emerge infatti che i pazienti attualmente positivi sono in diminuzione in 11 regioni, e cioè Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Liguria, Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Calabria e Valle d'Aosta, e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, in Basilicata non si registrano nuovi casi. In controtendenza, invece, purtroppo sono ancora la Lombardia con 495 nuovi malati in più rispetto a ieri e il Piemonte con 239 in più. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità oggi in conferenza stampa ha detto che l'anticoagulante eparina, di cui si parla molto in queste settimane, non appare risolutiva e l'unico modo per capirne l'efficacia è condurre degli studi seri. Ha detto: ad oggi non si può dire che la sua efficacia sia inconfutabilmente dimostrata. E si va man mano delineando la fase 2. Il governo è al lavoro sul piano per la fase 2. Dal 4 maggio probabilmente non saranno più necessarie le autocertificazioni per spostarsi all'interno della regione di residenza. Il modulo continuerà ad essere obbligatorio solo per chi dovrà viaggiare da una regione all'altra per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. In vista del riavvio delle attività produttive, l'esecutivo e le parti sociali hanno raggiunto un'intesa sull'aggiornamento del protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le novità ci sono la certificazione medica per il rientro dei lavoratori risultati positivi al Covid-19, l'uso delle mascherine chirurgiche per chi condivide ambienti comuni, la rimodulazione degli spazi lavorativi e la chiusura temporanea delle imprese che non rispettano le regole. In attesa del decreto sulle riaperture va avanti intanto il confronto con gli enti locali. La nuova riunione della cabina di regia è slittata a sabato, giorno nel quale il Premier Conte dovrebbe presentare le linee guida del piano per la fase 2. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In Veneto la fase 2 è già iniziata. Il governatore della regione Luca Zaia firma una nuova ordinanza. Luca Zaia ha deciso di correre più forte degli altri, arrivando per primo al traguardo della normalità, tutta ancora da definire. Il presidente del Veneto, con una nuova ordinanza, ha tolto alcune restrizioni. Solo la settimana scorsa era stato l'altro governatore leghista, quello della Lombardia, Attilio Fontana, a mordere il freno per la ripresa, anche a dispetto della situazione ancora grave in cui versa la sua regione. Ora Zaia ha dato il via libera alla vendita di cibo da asporto, alla riapertura dei cimiteri, alla vendita di fiori e piante e soprattutto è ammessa l'esecuzione di lavori pubblici di strade, autostrade e infrastrutture, a prescindere dal codice Ateco. Io spero di aprire tutto quello che si possa considerare apribile. C'è la volontà di far tutto questo con al fianco la comunità scientifica, questo deve essere poco ma sicuro, e che sia assolutamente rispettosa delle linee guida per la messa in sicurezza dei lavoratori, di tutti gli operatori in generale, anche della comunità. Sarebbe stato meglio ragionare tutti insieme, dicono negli ambienti di governo, e fanno notare che l'annuncio arriva nel giorno in cui in Veneto si registrano 348 casi in più rispetto al giorno prima. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche Milano sta pianificando la fase 2, si chiama Milano 2020 strategia di adattamento. Il piano lanciato dal comune del capoluogo lombardo, aperto ai contributi dei cittadini per gestire la ripartenza. Il documento è stato presentato oggi da alcuni assessori in una conferenza stampa e streaming. Il piano punta in generale su una riorganizzazione dei tempi e degli spazi della città, dalla ridefinizione dell'uso delle strade e degli spazi pubblici all'aumento degli spostamenti con la bicicletta e a piedi, alla riscoperta della dimensione di quartiere per vivere la città in modo diverso, senza il pericolo di creare assembramenti. Ma ce lo spiegherà meglio qui nel corso di questa puntata l'assessora al commercio Cristina Tajani. Passiamo agli strumenti per contrastare la crisi economica in Europa. Il summit europeo ha approvato il pacchetto da 540 miliardi di euro e ha deciso che il prossimo bilancio comunitario sarà la parte principale del nostro piano per la ripresa economica. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis. Ha detto: ora serve un budget ambizioso, proporremo uno strumento per la ripresa aggiuntivo, corposo, dedicato alla crisi, assicurando che ci sia una capacità sufficiente per sostenere la ripresa nei prossimi anni. Ma qual è a questo proposito il giudizio del Parlamento europeo sull'esito del vertice di ieri? Sergio Nava lo ha chiesto a Irene Tinagli, presidente della Commissione Affari Economici dell'Europarlamento. Io penso che, voglio dire, sia un po' un premio allo sforzo, all'impegno, alla determinazione dei paesi mediterranei, diciamo dell'alleanza, perché poi non ci sono solo i paesi mediterranei che hanno spinto per il recovery fund, quindi per una risposta europea massiccia, e non solo per il recovery fund, per avere un ventaglio di opzioni, di strumenti che potessero sostenere i paesi dell'Unione in un momento di crisi di questo genere. Quindi io penso che sia un'ottima notizia. Veramente io capisco anche la delusione di chi sperava che già da ieri sera ci fossero tutti i dettagli. È ovvio che ancora invece ci siano dei punti interrogativi e quindi è presto anche per un eccessivo trionfalismo, però questa, diciamo, non è la finale di Champions, nel senso questa è una maratona, una negoziazione lunga in cui pian piano si conquista terreno, si conquistano nuovi strumenti e fino ad oggi sta andando molto bene, vedremo nelle prossime settimane come evolverà. E a proposito appunto degli strumenti economico-finanziari europei, il MES è ancora al centro del dibattito parlamentare italiano con divisioni in entrambi gli schieramenti. Una giornata parlamentare turbolenta in cui la Camera approva il decreto Cura Italia e respinge l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia. Con 229 voti a favore, 123 contrari e 2 astenuti, passa il provvedimento all'indomani della fiducia incassata dal governo. Ma prima Giorgia Meloni propone ai 5 Stelle di votare un ordine del giorno che impegna il governo a non utilizzare il MES, approvato a Bruxelles insieme ai Recovery Fund. E mi voglio rivolgere ai colleghi del Movimento 5 Stelle. L'idea è che i vostri alleati di maggioranza abbiano l'impressione di volervi o vogliano umiliarvi. Una linea in contrasto con l'accordo, sottoscritto anche dal Premier Giuseppe Conte, che parla di fiducia nel nuovo fondo, ma che apre una crepa nei 5 Stelle. Il movimento respinge l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia, ma 7 deputati votano sì e uno si astiene. Per Matteo Salvini della Lega è una sconfitta, il fondo Salva Stati sarà una drammatica ipoteca per i nostri figli, ma per il sottosegretario Antonio Misiani del PD, Meloni punta al caos e non vuole i soldi per gli italiani. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di economia e finanza per il decreto di aprile, ipotesi manovra da 150 miliardi. Quest'anno l'economia andrà in rosso, il prodotto interno lordo scenderà a meno 8% per poi risalire nel 2021, superare la soglia zero e fermarsi a più 4,7%. È la stima del governo inserita nel documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei Ministri. Tabelle e numeri sullo stato di salute di economia e conti pubblici sono negativi, pesa la crisi innescata dal coronavirus, spiega l'esecutivo. Senza il cigno nero dell'epidemia, quest'anno il PIL sarebbe cresciuto dello 0,6%. Covid-19 appesantisce anche il deficit, stimato al 10,4%, e il debito fissato al 155,7% rispetto al PIL. A partire dal prossimo anno il DEF punta poi a cancellare le clausole di salvaguardia dei conti pubblici, mettendo così fine alla caccia di risorse per evitare l'aumento dell'IVA. Previsto anche un piano di privatizzazioni da 3 miliardi l'anno per il prossimo biennio, una scelta dettata dalla volontà di diminuire il debito. Il Consiglio dei Ministri ha dato anche via libera alla relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio, quantificato in 55 miliardi di extra deficit. Risorse da destinare al prossimo decreto aprile, che conterrà nuovi aiuti per famiglie, lavoratori, imprese, sanità e protezione civile. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ora all'estero, il bilancio delle vittime per il coronavirus negli Stati Uniti supera i 50.000 morti. Gli Stati Uniti sono sempre di più l'epicentro della pandemia e viaggiano ormai verso il milione di casi di contagio, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Nuovo scontro tra l'altro tra il presidente americano e i media dopo le polemiche scatenate dalle affermazioni di Trump, in cui ha suggerito per contrastare il coronavirus l'uso di iniezioni di disinfettante per pulire i polmoni. La portavoce della Casa Bianca accusa i media di riportare irresponsabilmente fuori contesto le frasi, poi Trump, incalzato dai giornalisti sul perché avesse suggerito queste iniezioni di disinfettante, ha detto era una proposta sarcastica. Intanto c'è un nuovo attacco da parte dell'America alla Cina, sapevano dell'epidemia forse già a dicembre, Pechino ha risposto, è completamente infondata questa accusa. E il presidente americano Trump e quello cinese Xi Jinping non hanno partecipato alla presentazione dell'iniziativa lanciata dall'ONU e dall'OMS per accelerare lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. All'evento sono intervenuti molti leader di tutto il mondo, dalla Germania al Sudafrica, compresa naturalmente l'Italia, ma nessun rappresentante di Stati Uniti, il paese al momento più colpito appunto, o la Cina, quello in cui si è manifestato la prima volta il Covid-19. La Gran Bretagna, numeri in crescita, lockdown prorogato di 3 settimane e misure non così restrittive. Andiamo a vedere come il Regno Unito, in particolare Londra, sta vivendo l'emergenza coronavirus. L'anticipazione del reportage, che poi sarà in onda domenica alle 8.15 su Radio 24. Il picco non ancora raggiunto e i numeri dei morti, che secondo il Financial Times potrebbero essere il doppio di quelli ufficiali. La Gran Bretagna in 10 giorni è passata dall'immunità di gregge a restate a casa, con il lockdown deciso il 23 marzo e prorogato al 7 maggio. I dati, basati sugli ospedali, mostrano oltre 18.000 vittime e 140.000 contagi, ma secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, a inizio aprile una persona su tre nel Regno Unito è morta morta infetta da coronavirus a Londra, una su due. Nonostante ciò e nonostante negozi, alberghi, ristoranti, scuole e musei chiusi, i londinesi ci raccontano di una città tranquilla che vive l'ora d'aria concessa nei parchi e lungo le rive del Tamigi, dal St. Thomas, ospedale dove è stato ricoverato il premier Boris Johnson, l'appello del medico Lorenzo Garagnani. La situazione rimane grave, il rischio di contagio rimane reale. Bisogna quindi resistere e non cedere alle tentazioni e soprattutto non abusare delle piccole libertà che sono state concesse in UK. Disponibili tamponi a tutti i medici, infermieri e familiari. Partiti ieri i primi test sperimentali sull'uomo per il vaccino anti-Covid sostenuto dal governo britannico. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Domani 25 aprile, festa della liberazione dal nazifascismo, per la prima volta senza precedenti. Il 25 aprile di domani, non manifestazioni né piazze, cerimonie. L'Italia comunque ricorda con le corone di fiori deposte da pochi, con le mascherine qua e là in varie parti d'Italia. Però sarà molto seguito e molto celebrato a quanto pare via social. Questi sono i mezzi che si possono usare in questo periodo così difficile, a cui aderiranno molti personaggi dello spettacolo e della cultura. Per chiudere, lo sport. Il mondo del calcio attende il via libera, ma i dubbi crescono. Alla fine la decisione sul ritorno del calcio in Italia sarà politica e non solo medico-scientifica. A dirlo è Gianni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità. Credo che sia una decisione molto difficile da prendere. Non mi sembra che ci siano condizioni per rischio zero. Non una bocciatura completa, ma la consapevolezza che il via libera non è scontato nei modi e nei tempi. La Federcalcio attende la risposta del governo sul protocollo presentato in settimana, un copione replicato anche in Spagna, dove c'è polemica sui tamponi da fare ai calciatori, ma si spinge per partire, e in Germania, dove invece la Bundesliga è vicina al ritorno in campo il 9 o il 16 maggio, con regole rigide ma anche con l'indicazione di non fermare tutto in caso di nuova positività. In Francia a tenere banco sono le condizioni di Junior Simbia, 23enne del Montpellier in rianimazione con sospetto coronavirus. Intanto la FIFA ha dato il via libera al piano Marshall per il calcio, 150 milioni di dollari alle federazioni per cercare di superare la crisi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con lo sport si chiude questa prima parte di Effetto Notte, così possiamo tra poco con gli ospiti addentrarci in alcuni temi in particolare che voi potete sempre commentare naturalmente sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure con SMS e WhatsApp da inviare al 349-238-6666. Tra poco. Strade in diretta. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento. Coda a tratti per lavori ancora sulla 16 Napoli-Canosa tra Vallata e Grotta Minarda in ambo i sensi di marcia. Ricordiamo che per lavori sulla 7 Milano-Genova dalle 21 alle 6 di domani mattina resterà chiuso l'allacciamento con la 21 Torino-Piacenza-Brescia in immissione in A7 in direzione Milano provenendo da entrambe le carreggiate. Per questo appuntamento è tutto, torniamo tra circa mezz'ora dopo. Promo 24. Sono tanti i settori in crisi a causa del coronavirus. Uno dei più colpiti è il turismo ed eventi, tra i più importanti motori dell'economia e della cultura italiana. I principali operatori del turismo chiedono a gran voce un fondo straordinario per fronteggiare la crisi. Le associazioni Astoi Confindustria Viaggi, FTO e importanti operatori del comparto hanno promosso il Manifesto del Turismo per l'Italia, che con l'hashtag Ripartiamo dall'Italia chiede il sostegno di tutti per la ripartenza del turismo. Operatori del settore e consumatori possono aderire al manifesto sulla piattaforma change.org. Salviamo il turismo, salviamo l'Italia. Info e aggiornamenti su ripartiamodallitalia.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti, lo sapete, sempre ricchissimi di aggiornamenti in diretta, di sintesi della giornata, di approfondimenti con gli ospiti e anche dei vostri commenti sui i fatti principali al 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Vedo moltissimi, mi mandano dei messaggi vocali. Io questi li sento solo dopo la fine della trasmissione, non li sento durante la trasmissione. Poi vi rispondo per iscritto, eccetera, però durante la trasmissione non li posso mandare, sennò qui non si finisce più. E poi invece c'è qualcuno che accusa il 90% delle morti sono state provocate dalla scorretta terapia, insomma ognuno però ha il suo punto di vista, qui ci vogliono medici, donne e uomini, esperti, scienziati per giudicare le cose come sono andate, almeno dal punto di vista sanitario. Poi che ci siano stati degli errori, che nelle RSA, nelle case di riposo, sappiamo che ci sono state delle gravi imprudenze, qualcuno anche insomma forse ha cercato di nascondere delle cose, comunque ci sono delle inchieste aperte e saranno poi i magistrati a fare un po' il loro lavoro. Adesso invece ci occupiamo subito di economia, di strumenti economici per questa grave crisi che sta colpendo in particolare il nostro paese. Presenti 354, votanti 352, astenuti 2, maggioranza 177, favorevoli 229, contrari 123, la Camera approva. E cosa ha approvato la Camera? Il decreto Cura Italia, che quindi diventa legge. Vero Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore? Ciao cara Barbara. Ciao. Che quindi questo Cura Italia, che dovrebbe curare l'Italia in questo momento così difficile da un punto di vista economico-finanziario, di aiuti alle imprese, alle famiglie, ricordiamo proprio almeno i punti principali di questo. Vabbè, quello che prevede i 600 euro, quello che prevede i 25.000 euro di prestito, però sappiamo già, anzi no scusate, ho confuso, è quello che prevede appunto i 600 euro e tutta un'altra serie di bonus che vengono l'estensione della cassa integrazione, cioè è stato il provvedimento, no, di primo impatto, tant'è che già si parla di un decreto aprile che in realtà poi diventerà molto probabilmente un decreto maggio, perché aprile ormai si sta concludendo e quindi nel senso che appunto alcune misure, ad esempio il bonus da 600 euro già si sa che verrà portato ad 800, proprio però in queste ore insomma sappiamo, Roberta, che è stato come dire, il Consiglio dei Ministri ha varato il DEF, la prossima documento settimana di arriverà e alle Camere lo scostamento di bilancio, probabilmente andremo su delle cifre molto alte, superiori ai 50 milioni e quindi... Cioè insomma, ci indebitiamo ulteriormente, diciamo, per mettere a disposizione, no, per fare questa manovra. In questo momento è inevitabile, poi vedremo quello che farà l'Europa, comunque nel frattempo come dire, ci dobbiamo aiutare nel frattempo da soli. E vediamo che stanno aumentando anche le aste dei titoli di Stato, cioè le aste nel senso aumenta il volume dei titoli di Stato, di debito, quindi che mettiamo sul mercato per finanziare tutte queste spese, cioè che sono enormi. Tra l'altro si parla di una maxi manovra da 150 miliardi che il governo si appresta a varare, appunto come cura shock per la ripartenza. Stavo dicendo, cioè si prepara una maxi manovra, cioè una manovra che in realtà è in itinere, perché tutto quello che sta avvenendo è già una manovra, no? Quindi il governo si sta preparando, ha già cominciato a utilizzare la leva, diciamo, finanziaria per immettere, come si dice sempre, liquidità. Poi quanta di questa liquidità nel frattempo, cioè durante la vigenza per esempio del Cura Italia e del decreto imprese, del decreto liquidità, sia arrivata effettivamente nelle tasche degli italiani, questo è un altro conto, perché appunto il problema sempre è tra quello poi che sono le misure legislative che vengono introdotte e decise dai vari governi e quello poi che effettivamente in pratica si traduce in pratica, e sappiamo che per esempio molte imprese hanno trovato difficoltà nel sistema bancario, abbiamo visto insomma quando all'inizio c'è stata anche ragionevolmente il tilt dell'INPS per l'eccesso di richieste, quindi è chiaro che ci troviamo in una situazione senza precedenti, con un paese che è allo stremo dopo una quarantena che sembra non finire mai ormai, ma soprattutto per chi al di là insomma del, come voglio dire, al di là del fastidio che ciascuno di noi può provare per il disagio psicologico, però c'è anche il rischio varie imprese che, o commercianti dire, o artigiani eccetera, lavoratori in generale di perdere il lavoro. La cosa terribile è che magari cioè da un giorno all'altro molte persone hanno visto che quella che era una loro prospettiva di vita ma parlo anche di persone, non so, di chi ha una concessionaria automobilistica piuttosto, quindi non è che parlo di soltanto di grandi aziende, da un momento all'altro la sua prospettiva di vita, i suoi programmi, dalle vacanze di quest'estate al figlio da mandare all'estero piuttosto che comprarsi la casa o investire sul proprio negozio o nella propria azienda, è cambiata completamente, cioè siamo stati investiti da uno tsunami e secondo me, secondo quello che tutti ritengono, poi ancora non ne vediamo bene gli effetti, perché siamo solo all'inizio, cioè quello che è avvenuto e sta ancora avvenendo, perché non ne usciremo, cioè non è che con il 4 maggio, quando noi avremo le nuove linee guida e magari potremo andare a fare la nostra corsa nel parco piuttosto che uscire di casa con l'auto senza venire fermati dalla polizia per l'autocertificazione, ma questo sarà, come dire, il minimo. Il problema grande, enorme, è che questo virus convivrà con noi fino a quando, come ha detto già Conte, come ha ripetuto anche Zaia oggi, fino a quando non avremo il vaccino o una cura che sia in grado davvero di debellare. Abbiamo parlato proprio ieri di vaccino qui con due protagonisti, uno da Oxford e l'altro il direttore scientifico del laboratorio di Pomezia, che stanno sperimentando già da ieri il vaccino che è stato fatto in partnership appunto dal laboratorio di Pomezia e di RBM e dallo Jenner Institute della Oxford University. Ne parlavamo appunto tra collegamento tra Pomezia e Londra, di questo vaccino che è il progetto di sperimentazione più importante in questo momento in Europa. Vediamo, insomma, erano abbastanza ottimisti, ce ne sono, diciamo, a livello di messa a punto almeno un centinaio nel mondo, però questo per il momento sembra uno dei più promettenti. Staremo a vedere. Barbara, però, per quanto riguarda la fase 2, di cui parleremo poi dopo con l'assessora al commercio del Comune di Milano, per quanto riguarda Milano, tu hai citato Zaia, che infatti ha detto che già prenderà delle iniziative, degli allentamenti, per esempio sui cimiteri, sul takeaway. C'è un ascoltatore, vediamo un altro ascoltatore, che mi chiede del modulo 69 sugli affitti. Mi dispiace, però io non posso entrare così nel dettaglio, dovrei avere un pozzo di scienza nella testa. Invece un altro ascoltatore diceva, vediamo se lo ritrovo. Ecco, cara Roberta, ma quando Zaia, questo è Lorenzo da Roma, quando Zaia, presidente del Veneto, dichiara che apre in accordo secondo quanto anche indicato dal comitato scientifico, vuol dire che il Veneto ha il suo comitato ad hoc diverso da quello nazionale, con Brusaferro, Locatelli e compagnia? Non mi è affatto chiaro. Allora, Lorenzo, Zaia da una parte ha, diciamo, il suo consulente scientifico, diventato una specie di braccio destro, che è il professor Crisanti, ma nello stesso tempo lui oggi diciamo, ha allentato già delle restrizioni, dicendo che però queste non entrano in contraddizione con col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nessuno mi sembra abbia detto granché, insomma, da parte del governo, però si aspetta. Ma diciamo che non avrebbe anche neanche molto senso dire qualcosa in questo momento, nel senso che se le linee guida e quindi tutta una serie di provvedimenti saranno date entro domenica, nel dettaglio ha assicurato Conte. Vediamo, io non sarei così certa di questo. No, comunque sappiamo che entreranno in vigore a partire dal 4 maggio, in quanto l'attuale DPCM vale fino al 3, quindi poi dal 4 cambierà il regime, no? Ecco, allora la cosa che stavo dicendo è che non avrebbe molto senso adesso fare uno scontro con Zaia sul fatto che, ne so, che ha aperto i parchi piuttosto che il takeaway, quando magari tra una settimana in tutta Italia questa regola varrà per tutti, cioè perché siamo un po' agli sgoccioli di questa prima fase, lo scontro. Però Barbara, a proposito delle varie task force, no, che stanno consigliando il governo, e c'è chi accusa sono fin troppi tutti questi esperti eccetera, queste task force sono piene di persone, c'è un gruppo di donne della società civile che a nome personale è anche in rappresentanza di numerose associazioni, 107 associazioni, si chiama Date Voice, ecco, questo l'avevo letto in inglese, Dateci Voce, ha promosso una raccolta firme e dice: in Italia il 68% degli operatori sanitari colpiti dal Covid-19 sono donne, un dato che stupisce se si considera che le donne sono mediamente meno colpite degli uomini dal virus, ma anche trova una sua spiegazione nel fatto che numericamente rappresentano le donne i due terzi del personale sanitario. Le donne ci sono, stanno soffrendo, rischiano la vita insieme agli uomini, anche più degli uomini, dice questo gruppo Dateci Voce, eppure non trovano spazio perché evidentemente non servono, lo dimostrano i fatti, dicono le promotrici. Solo 4 componenti su 17 sono le donne nella task force di Vittorio Colao, che sappiamo che è il coordinatore della fase 2. Nessuna donna nel comitato tecnico-scientifico della protezione civile, 17 su 76 nella task force della ministra dell'innovazione Paola Pisano. Dicono rimarrà nella storia che i 7 paesi che hanno fronteggiato meglio l'emergenza sono governati da donne, concludono le promotrici. In effetti, insomma, il fatto che in tutte queste task force così numerose, così cospicue, ci siano pochissime donne a rappresentare. Sì, anche se io non sono per una, come dire, mi piacerebbe che le persone venissero scelte sulla base del merito, non del genere. Però anche la Bonino nei giorni scorsi diceva: io non voterei le famose quote rosa, però mi rendo conto che se non ci si mette una legge, un'imposizione, gli uomini sceglieranno sempre gli uomini, insomma, no? Per andare avanti, per lavorare, per spalleggiarsi, per darsi fiducia reciprocamente. Quindi il problema resta. Vabbè, comunque vedremo come inizia questa fase 2 e se verrà delineata, come ha assicurato il governo entro domenica. Barbara è piuttosto scettica. Barbara, sai che con l'emergenza, col fatto che c'è penuria di certe cose, oppure ci si arrangia in certi modi, manca il lievito perché tutti sono messi a fare il pane in casa, ci sono anche gli orti da balcone. Tu ce l'hai un po' di carotine, pomodori, qualcosa lì, lattuga nel tuo balcone? No, un po' di basilico. Un po' di basilico. Regge bene, perché è difficile coltivare il basilico. Sì. Ho un giardino, quindi sono fortunata. Allora sei fortunata, Barbara, e con la tua fortuna ti abbraccio e ci sentiamo presto. Grazie Barbara Fiammeri. Buonasera. Ciao Barbara. Adesso vedo una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella prima di lasciarci, sulla resistenza c'è l'embargo fino a mezzanotte, lo vedo adesso, quindi è una roba che non si può dire al momento, ci sentiamo dopo. Ecosistemi, biodiversità, cambiamenti climatici, qual è lo stato di salute del nostro pianeta? In occasione della Giornata Internazionale della Terra, un volume per approfondire i concetti legati all'ambiente, all'ecologia e al mondo green. Il libro dell'ecologia, in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo e gli ascoltatori di Radio 24. Un campo di alta pressione nella giornata di sabato assicurerà bel tempo prevalente sulle nostre regioni, con cieli sereni o al più poco nuvolosi, una bella giornata soleggiata anche per il centro-sud. Massime del pomeriggio diffusamente tra i 18 e i 23 gradi, con qualche punta anche di 25-26 gradi sull'Alto Tirreno e regioni settentrionali. Vi segnalo dal pomeriggio un po' di variabilità invece su Alpi e Prealpi, con occasionali piovaschi o brevi temporali. Seguite tutti gli aggiornamenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Stai ancora cercando qualcosa di forte contro il calcare? C'è una grande novità! Anticalcare universale Chantecler. Super potente come Chantecler, super delicato sulle cromature, senza fatica e con effetto antigoccia. Nuovo anticalcare universale Chantecler, antigoccia e aceto bianco. Chantecler, il gallo del pulito. Per i nuovi uffici vogliamo accontentarvi tutti, per cui illuminazione minimal, pareti fluorescenti, quadri barocchi e sedie a sdraio. Mettere insieme tante realtà è difficile. Non con Sistema Associazione, la soluzione gestionale cloud per offrire servizi alle imprese associate, fiscali, contabili, fattura elettronica, paghe, gestione risorse e privacy. Sistema Associazione di Sistemi e rende semplice la gestione di un'associazione. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, perché siete qui in una trasmissione, diciamo, che è in collegamento con tutto il mondo. Da tutto il mondo scrivono per dire che stanno ascoltando, per sapere che cosa succede in Italia. Voi comodamente invece siete in Italia, a casa. Naturalmente la resistenza un po', diciamo, langue ultimamente, ma teniamo e manteniamo il senso della meta, almeno fino al 4 maggio. Vediamo cosa cambia, ci avviciniamo alla fase 2. Roberta Giordano sempre con voi. I vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Per esempio, questo ascoltatore dice: il mio orto da balcone è stato preparato il primo giorno di lockdown, a breve ortaggi di tutti i tipi. Bene, bene, bene, proficuo l'orto di questo ascoltatore o ascoltatrice. Ne parlavamo prima in chiusura per scherzare un po' con Barbara Fiammeri. E poi invece un ascoltatore mi dice: per curiosità, Diego da Roma, chi l'avrebbe messo l'embargo sulla Resistenza? No, vi dicevo che stavo leggendo, come quando vi aggiorno, no, i titoli delle agenzie, i dispacci che man mano si susseguono sotto i miei occhi, e c'erano i titoli di Mattarella e del discorso che sta per fare per il 25 aprile. Poi vado ad aprire l'agenzia e in questo caso evidentemente è solo per notizia a favore dei giornalisti, ma non la diffone, ma nulla, non c'è nulla di segreto, semplicemente non prima del tempo, non prima di mezzanotte, i vari passaggi di questo discorso che Mattarella intende fare per il giorno della liberazione, 25 aprile appunto, domani. Mentre poi c'è questo ascoltatore che dice, a proposito, prima diceva un altro, un'altra persona parlava di Zaia, del fatto che ha già allentato delle restrizioni, dice: io vivo in Liguria, qui da lunedì sono già ammesse varie attività all'aperto, comprese passeggiate, attività sportiva all'aperto, ovviamente si prevede tempo discretamente piovoso, ma lo sapevamo, quindi c'è un po' una beffa, ma comunque l'importante è che ci avviciniamo a questa benedetta fase di cui qui abbiamo scandagliato nei vari giorni, effetto notte, tanti temi che sono legati alla fase 2, che è quella appunto della graduale ripartenza, che secondo quanto ha stabilito il governo parte dal 4 maggio. Il Presidente del Consiglio ha detto, lo ripetevo prima con Barbara Fiammeri, la nostra commentatrice, che delineerà nel dettaglio questa fase 2 entro il fine settimana, quindi dovrebbe essere entro domenica. Nel frattempo, appunto, come abbiamo detto, alcune regioni si stanno muovendo, per esempio il Veneto, oggi parlavamo di alcuni dettagli. E tra le regioni, pleonastico ripeterlo, la Lombardia è stata la regione che ha pagato il prezzo più caro finora all'epidemia di coronavirus, e con la Lombardia anche il suo cuore pulsante, che è poi il cuore pulsante dell'Italia, Milano, no? Dal punto di vista economico, produttivo, culturale, ma anche per tutta la sua grande vitalità in tanti settori, e diciamo è senz'altro poi la città più europea d'Italia. Quindi Milano sta inevitabilmente pianificando a sua volta la sua fase 2, si intitola Milano 2020, strategie di adattamento, praticamente riorganizza l'uso di strade, di spazi pubblici, apre gli spostamenti in bici, in piedi, ma ci facciamo raccontare meglio nei dettagli dall'assessora al commercio del Comune di Milano, Cristina Tajani. Buonasera assessora. Buonasera a voi. E grazie della disponibilità. Quindi Milano scalda i motori, Milano che è sempre stata considerata, ho detto diverse cose che la caratterizzano, insomma anche la città che è continuamente in movimento. Mi pare che questa ripartenza sarà un po' anche, diciamo, con un ritmo diverso. Sì, sicuramente sì, siamo tutti in attesa ovviamente di conoscere quali saranno le decisioni del governo a partire dal 4 maggio, ma l'obiettivo del Comune di Milano è quello di non farsi trovare impreparato. Questa è la ragione per cui oggi abbiamo pubblicato un documento, l'abbiamo chiamata appunto strategia di adattamento, è un documento che verrà sottoposto al dibattito pubblico, quindi alla raccolta di opinioni e di suggerimenti da parte dei cittadini a partire appunto da lunedì 27, sarà possibile inviare tramite il sito commenti e riflessioni. Ed è non un insieme di regole, quelle ce le indicheranno il governo e le autorità sanitarie, ma una visione, una strategia che prende in considerazione fondamentalmente due dimensioni, quella dello spazio, come accennava lei, e quella del tempo. Sappiamo già che la regola del distanziamento sociale sarà una regola aurea anche a partire dal 4 maggio e abbiamo bisogno soprattutto di decongestionare i mezzi pubblici, quindi il trasporto pubblico locale nella fase successiva. Questo significa costruire un piano dei tempi della città, e siamo nella dimensione temporale, che desincronizzi l'ingresso al lavoro di quei lavoratori che potranno gradualmente rientrare sia negli uffici pubblici che nelle aziende private, nelle banche, in tutto il sistema dei servizi che caratterizza Milano. Quindi stiamo predisponendo una piattaforma di condivisione con i grandi datori di lavoro della città, e tra questi inserisco il Comune di Milano. Io mi occupo anche del personale dell'ente, sono circa 15.000 dipendenti. E molti stanno lavorando in smart working da tempo, no, assessora Tajani? Sì. Mm. Praticamente quasi tutti, abbiamo 6.700 lavoratori ad oggi in smart working e alcune migliaia in presenza, soprattutto polizia locale, diciamo, addetti ai servizi pubblici essenziali. Lo smart working rimarrà, diciamo, una chiave anche nella fase successiva, ma chi dovrà tornare al lavoro dovrà rientrare, immaginiamo noi, con orari scaglionati, cioè l'obiettivo è quello di eliminare le ore di punta, desincronizzare l'ingresso al lavoro, e questo è possibile grazie ad un sistema di coordinamento che stiamo mettendo in campo con una serie di colloqui e tavoli di confronto con le grandi imprese del territorio, proprio con l'obiettivo di evitare gli assembramenti nei mezzi pubblici. Poi lei citava giustamente la dimensione spaziale, abbiamo bisogno di occupare tutto lo spazio possibile, diciamo, della città per stare distanziati, per evitare le concentrazioni. Quindi abbiamo mutuato nel nostro documento una suggestione che viene dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo, che parla di una città nel raggio di 15 minuti a piedi, cioè sostanzialmente significa una rivalutazione della dimensione di quartiere, di servizi commerciali e anche servizi pubblici raggiungibili nella scala di quartiere. Questo è un tema che noi avevamo già analizzato e promosso ben prima dell'emergenza sanitaria, ma che ritorna particolarmente utile, diciamo, in questa fase. Ma questo, assessora Tajani, questo di muoversi a distanza di un quarto d'ora per raggiungere i negozi di quartiere, tutti i servizi di quartiere, sarà un obbligo, sarà una sollecitazione? Come funzionerà? Sarà, diciamo così, un invito, una direzione di marcia. È l'obiettivo che noi ci stiamo dando in collaborazione con diversi attori del territorio. In questa fase emergenziale, per esempio, la dimensione dei negozi di quartiere di vicinato è tornata a risplendere, diciamo, nella sua utilità. Noi come comune abbiamo promosso una mappa che oggi ha più di 800 adesioni di attività di vicinato e di quartiere che fanno consegne a domicilio. La dimensione della prossimità sarà una dimensione ancora utile in questa fase. Senta, però il vero nodo appunto è quello dei trasporti. Non sarà facile organizzare i trasporti in modo che tutti stiano distanziati, che siano, come diceva lei, desincronizzati i tempi, nel senso scaglionati, chi va prima al lavoro, chi va dopo. E infatti questa è la sfida più ambiziosa rispetto alla quale stiamo lavorando in due direzioni. La prima è quella che attiene strettamente alla gestione del TPL, quindi immaginiamo di poter proseguire e andare avanti con una capienza del 30% rispetto a quella abituale che le nostre metropolitane, i nostri tram sopportano. Questo, diciamo, significherà anche incentivare l'utilizzo del mezzo in alcune fasce orarie piuttosto che in altre, e l'incentivazione della mobilità individuale dolce. Non vogliamo tornare ad una città congestionata dalle automobili, e per questa ragione abbiamo promosso in tempi brevi la ciclabilità, cioè un piano di piste ciclabili gestibili e implementabili in tempi molto brevi. Tipo quali tempi? Perché fare delle piste ciclabili in una città come Milano non è neanche semplicissimo, assessora Tajani, no? Sicuramente sì, questo è uno sforzo che, diciamo, comprende anche un ragionamento sulla gestione delle autorizzazioni, eccetera, ma l'obiettivo è da qui ai prossimi mesi, quindi da qui all'estate, implementare la ciclabilità cittadina. Peraltro abbiamo colto con soddisfazione le dichiarazioni della ministra ai trasporti De Michelis, che oggi, diciamo, dichiarava la volontà del governo di incentivare anche l'acquisto per i privati delle biciclette, soprattutto biciclette, monopattini, biciclette elettriche, diciamo, tutto quanto attiene alla mobilità dolce. Senta, assessora Tajani, leggevo anche che immaginate di mettere i tavolini dei bar, che dovranno riaprire anche i poveri bar, ristoranti, anche per esempio negegli spazi di parcheggio delle auto? Sì, questa è una delle idee contenute nel documento. Immaginiamo che i pubblici esercizi, quindi bar e ristoranti, saranno tenuti al distanziamento sociale, e noi vorremmo potergli accompagnare ed aiutare consentendo un'occupazione del suolo straordinaria e temporanea rispetto a quella autorizzata, diciamo, in maniera ordinaria. Quindi l'ampliamento degli spazi di occupazione suolo per i tavolini e le sedie di bar e ristoranti, anche in alcuni casi, diciamo, sarà possibile farlo a discapito delle aree di parcheggio che appunto vorremmo disincentivare. Quindi, insieme all'uso aspettiamola con privata. Ansia questa fase 2. Per chiudere, assessora Tajani, le chiedo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala domani suonerà Bella Ciao dalla finestra del suo ufficio del comune e canterà, anche se si è detto stonato, canterà anche lei, assessora Tajani? Domani 25 aprile. Canteremo un po' tutti, diciamo, è una festa della liberazione molto particolare quest'anno, ma non meno densa di significati. Allora, buona festa del 25 aprile, grazie, buon piano per la fase 2, assessora Cristina Tajani, per Milano. A voi, grazie. A presto. Viabilità. Strade in diretta. Di nuovo una buona serata a tutti voi. Si rallenta con coda a tratti per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Vallate e Grotta Minarda in ambo i sensi di marcia. Anticipiamo che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sulla tangenziale ovest di Milano verrà chiuso in uscita l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli in direzione Bologna. È tutto, buon viaggio e buona serata. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tante cose ancora da raccontare, i vostri commenti, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. C'è per esempio questo ascoltatore che dice: io insisto che vorrei sapere il motivo della liberazione di oltre 70 boss di mafia. Non so se sono 70, ma tra poco ne parleremo. Invece adesso ci soffermiamo su un altro tema molto importante che riguarda la nostra vita che deve andare avanti e questa fase 2 che si sta preparando. Radio 24 Day. E sapete che oggi tutta la programmazione di Radio 24 ha avuto degli approfondimenti sulla scuola. La scuola è ancora chiusa, in alcune nazioni piano piano sta riprendendo, non da molte parti. Sapete, è stata la scuola, l'istruzione, le università, insomma gli asili, sono state la prima cosa chiusa con il lockdown per evitare appunto il contagio. Sentiamo che cosa ha detto ieri il presidente dell'Istituto del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli a proposito della chiusura che prosegue. A questo punto ancora non è stato ufficializzato dalla ministra Azzolina, ma ormai è chiaro che la scuola non riaprirà prima di settembre. Che ci possa essere anche un contributo di fenomeni di trombizzazione dei vasi a livello polmonare non è escluso. Però da qui a dire che c'è ovviamente un errore, non è questo sulle parina, è Locatelli sulla scuola. Locatelli 4 è il in scaletta, prego. La scelta di raccomandare di mantenere l'interruzione delle lezioni di didattica frontale è stata esattamente dettata dal fatto che nei modelli sviluppati una riapertura delle scuole in concomitanza con il ripristino delle attività produttive avrebbe comportato certamente l'andare oltre e non di poco l'indice di contagiosità attualizzato oltre il valore soglia di 1. Ecco, e quindi adesso sarà un comitato composto da 18 persone, presieduto dal professor Patrizio Bianchi, a dettare le linee per la ripresa della scuola a settembre e il miglioramento poi complessivo del sistema di istruzione. Il comitato, i cui esperti operano a titolo gratuito, dicono che resteranno in carica fino al prossimo 31 luglio 2020, formulerà delle proposte sull'avvio del prossimo anno scolastico. Protestano però i comuni. Pensare di progettare la riapertura della scuola senza partire dai comuni è miope e dannoso, ha detto Cristina Giacchi, che è responsabile per la scuola dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, e vice sindaca di Firenze. Giacchi, buonasera. Buonasera a voi, ben trovati. Quindi lei dice non vi hanno coinvolti in questi progetti, in questo piano che il comitato composto da 18 persone sta preparando per la riapertura della scuola? In un primo momento no, però dopo la nostra protesta è arrivata ieri una lettera della ministra Azzolina indirizzata a me, che le avevo scritto, ma per dire che i comuni saranno senz'altro coinvolti. Lei condivide e ha capito il nostro intento costruttivo. Del resto, un comitato di soli esperti che non muova dal confronto con la situazione reale delle scuole non avrebbe chance di proporre, diciamo, soluzioni davvero praticabili. I comuni sono i proprietari delle scuole, sono i responsabili dello stato dei luoghi, sono quelli che intervengono per le riparazioni a qualunque titolo, i dirigenti scolastici per qualunque guaio chiamano i comuni, chiamano i sindaci, gli assessori alla scuola. Siamo i titolari della funzione di supporto alla scuola, il pulmino per entrare, il prescuola, il post scuola, la mensa, il sostegno, gli educatori di sostegno. Insomma, i comuni sono davvero l'interfaccia tra l'istituzione scolastica che organizza la didattica e i cittadini e le cittadine, le famiglie, i piccoli cittadini e quelli più giovani che vanno a scuola. Quindi è necessario, è impossibile pensare di organizzare la vita della scuola, non dico di pensare ai contenuti, per carità, ma di organizzare la vita che ruota intorno alla scuola senza coinvolgere i comuni. Coinvolgere i comuni, chiarissimo. Quindi è stato accolto il vostro appello, vice sindaca Giacchi. Incontreremo il comitato, saremo comunque consultati dal comitato e ci confronteremo con loro, troveremo delle modalità. Bene. Questa è stata una buona notizia. Vi hanno dato tempi brevi per questo incontro col comitato? Non sappiamo, credo che lunedì si riunisca il comitato, forse, o si è riunito ieri per la prima volta. Noi siamo in un'ottima relazione anche con la vice ministra Ascani, che ci segue, e quindi vedremo di interloquire al più presto con il comitato al completo, anche per far presente qual è lo stato dell'arte. Chiaro, visto i tanti aspetti di cui vi occupate. Esatto. Sì, quale tema? Ma poi la vita della città ruota molto intorno alle scuole, no? Lo sentivamo prima anche nell'intervento di Locatelli. La chiusura delle scuole, lo dicevate anche voi, ha rappresentato il momento di esordio, il momento in cui la cittadinanza ha realizzato che la pandemia era una questione ben seria. La scuola paralizza la vita della città, quando non c'è la scuola il traffico è ridotto di percentuali assai sensibili. È chiaro che ripensare la ripartenza delle scuole è fondamentale per la vita delle intere città. Certamente, e quindi i comuni non possono esimersi, non possono essere esclusi da questa pianificazione. Grazie vice sindaca Cristina Giacchi, allora buon lavoro, speriamo a settembre, insomma, di essere tutti preparati e che tutto possa ripartire, almeno per quanto riguarda la scuola. Grazie. È così, e speriamo anche prima per i più piccoli, per aiutare le famiglie che devono tornare al lavoro. Tornare al lavoro, grazie. Speriamo. Grazie a voi, buon lavoro. Buon lavoro. Oh, come diceva prima l'ascoltatore, vuole sapere perché in questi giorni sono stati liberati alcuni boss al 41 bis, quindi al carcere duro. Le ragioni da parte dei magistrati che lo hanno fatto sono che non c'erano in carcere, che sapete sono cronicamente sovraffollate, la possibilità nel caso avessero gravi patologie di curarli nel modo dovuto. Raffaella Calandra, ciao Raffaella. Ciao Roberta, sì, è vero in parte quello che tu dicevi, nel senso che il discorso delle scarcerazioni di alcuni boss è collegato in parte con il discorso dell'emergenza coronavirus, anche se se si tratta di boss al carcere duro, in realtà il tema non si pone perché sono già in isolamento, e questa ad esempio è la ragione per cui sono stati negati i domiciliari ad un boss di peso, anche se ottantenne, come Nitto Santa Paola. Allora, qui il tema è che c'è sicuramente un'indicazione che è stata mandata alle carceri di cercare di alleggerire le carceri sovraffollate contro il rischio del contagio, e questo ha a che fare anche con parte del decreto Cura Italia, però non ci sono nessun tipo di automatismo, ogni singola storia viene valutata e decisa dai magistrati e dal singolo tribunale di sorveglianza. Però così, vedevo, fa, Raffaella, il boss è stato scarcerato, che era anche a 41 bis, ma perché tra 8 mesi avrebbe finito di scontare la sua pena e per le sue condizioni di salute non poteva essere in carcere, e sono le stesse ragioni per cui è stato messo in libertà anche il fratello di Zagaria. Però la polemica sicuramente Pasquale e le Zagaria, attenzioni che inevitabilmente ci devono essere per detenuti di peso come i mafiosi hanno indotto la Procura Nazionale Antimafia a stabilire che le decisioni sulle scarcerazioni per chi è al carcere duro devono passare attraverso il nulla osta della Procura Nazionale Antimafia. Tra l'altro, sulla scarcerazione di Pasquale Zagaria è intervenuto in serata il ministro della giustizia Bonafede, che ha disposto una indagine degli ispettori. Gli ispettori, come già aveva fatto qualche giorno fa rispetto alla scarcerazione di un altro boss di Cosa Nostra. Allora, è giusto andare a verificare, è giusto andare a capire, si tratta però di valutazioni che vengono prese nel dettaglio dai singoli magistrati, che però poi diventano dei casi una volta che diventano elemento di strumentalizzazione e di polemica politica. Ecco, c'è anche questo da dire, cioè ci sono i singoli fatti da verificare, su cui essere cauti, ma poi c'è anche tutto il rumore che sui singoli fatti viene fatto anche da parte di forze politiche che nello specifico la Lega ha usato e ha fatto leva su questi elementi per attaccare legittimamente il governo. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Roberta, grazie. Ciao Raffaella, buona serata. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore. E come sempre il venerdì a fine puntata, a fine settimana, il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo ci dice che tempo vedremo dalla finestra, Paolo? Sì, me la spalanchiamo questa finestra. Buonasera Roberta, perché davvero l'aria sarà molto mite nel fine settimana. Domani 25 aprile molti griglieranno, chissà perché, però insomma si può fare sul terrazzo, sul balcone, che ha la fortuna di avere un giardino, perché la giornata sarà bella in tutta Italia e con temperature molto miti, anche fino a 25-26 gradi, soprattutto al nord. Anche domenica ce la caviamo bene, tutto sommato si comincerà a vedere però qualche nuvola sia al nord che nelle regioni meridionali. E guarda, in settimana torna l'acqua da martedì, però sai, siamo ancora nella fase 1, bene o male, quindi sa che fa un po' d'acqua, poco ci disturba e fa sempre bene, ecco, quindi da martedì torneremo a vedere delle piogge un po' su tutta Italia. Quindi qualsiasi previsione faccia Paolo, va sempre bene, va comunque bene, molto bene. Non discutiamo. Grazie caro Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia dalla finestra. Buon tempo a tutti. Ciao Paolo, grazie. A presto. In attesa di vincere ci sentiamo alle 22.